fare tutta la... Restoradio Convento, per raccontarsi, per raccontare. Ed eccoci qua, entrati in diretta, quasi impicchiata, perché non potevamo aspettare e dobbiamo presentarvi un ospite della serata, ma anzi si presenta da solo, vai, fallo te. Buonasera a tutti, io sono l'avvocato Alessandro Ferrini del Foro di Piacenza e questa sera ho avuto l'opportunità di partecipare alla cena con profitto presso il convento di Lonato del Garda e con l'organizzazione del Garda Servizi. E è stata una serata molto interessante, con l'opportunità di scambiare diversi contatti che, ecco, si spera possano portare dei profitti non solo patrimoniali, ma anche a livello di relazioni, collaborazioni anche personali, insomma. Esatto, perché sintetizzando, per chi non conosce questa formula, è una cena dove vari professionisti che non si conoscono si incontrano e scambiano le proprie idee o servizi, esatto. Certo, diciamo che è una sorta di appuntamento al buio a livello di professionale, a livello di professionisti, imprenditori, e quindi è una cosa un po' fuori dal comune per certi versi e molto utile dall'altra. Non è la prima volta per me, anzi ormai sto diventando un fedele appassionato, insomma, di queste cene, e devo dire che, insomma, sta portando i suoi frutti, anche se io sono un po' fuori dalla zona, sono un po' la mosca bianca del gruppo, perché venendo comunque da un'altra regione, non solo un'altra provincia, insomma, sono quello più distante, però, insomma, il divertimento e la possibilità che comunque queste tipi di serate forniscono, credo che se ce n'è l'occasione sia un'opportunità comunque da sfruttare. Ecco, perché la cosa bella di questa serata, Alessandro, dimmi se sbaglio, confermami, è che di solito nella realtà di tutti i giorni si incontra il professionista e dopo c'è dietro la persona. Invece in questa cena funziona al contrario: prima c'è la persona, quindi si conosce la persona, e poi viene fuori il professionista, giusto? Esatto, è esattamente questa seconda delle due opzioni che hai detto, perché c'è sì un primo momento di conoscenza, di presentazione, giusto un minuto ciascuno, giusto per capire che tipo di attività uno fa. Poi, approfittando della cena e non solo, quindi anche dei momenti di intermezzo tra un piatto e l'altro e quant'altro, c'è modo di approfondire anche il rapporto a livello personale e valutare, insomma, se ci sono dei possibili spiragli che un domani possono portare a una telefonata per una consulenza, come può essere nel mio caso, a una visita in un negozio, come può essere chi ad esempio gestisce un bar piuttosto che un punto vendita, o per esempio uno scambio magari di reciproci favori e di reciproci interessi, favori ovviamente in senso buono e ovviamente lecito, ecco. Certo, no, ecco, certo, non fraintendiamo, ecco. Certo, perché diventando amici, tra virgolette, si riesce a socializzare e a legare meglio. Ecco. Poi, esatto, ma giusto per fare un esempio, io questa sera sono arrivato e le prime persone che ho incrociato, che peraltro non conoscevo, stavano parlando di contratti per aziende a livello internazionale, ecco, e quindi come poter fare per mettere in relazione una società italiana con una società estera e cose di questo tipo. E sono riuscito in breve a entrare anch'io nella chiacchierata che era iniziata, tra un saluto di marito, un bicchiere di vino e appunto questo tema di fondo, perché io nel mio mestiere ho appunto già da diversi anni l'opportunità appunto di confrontarmi con questo tipo di settore, perché assisto un'azienda italo-indiana che fa prodotti di metalmeccanica, in particolare fa prodotti e valvole per impianti petroliferi e con cantieri ovviamente nelle aree dove appunto gli idrocarburi sono all'ordine del giorno, quindi Medio Oriente piuttosto che Russia e quant'altro. Quindi insomma era una discussione che mi interessava da un lato per poter avere qualche informazione in più che poteva essere utile a me, e ho avuto l'occasione anch'io di dare il mio contributo con la mia testimonianza, la mia esperienza, e quindi diciamo che si è creato un piccolo tavolo di confronto, che poi è effettivamente lo spirito per il quale vengono organizzati questi tipi di eventi. E quindi diciamo che tutti e quattro credo che stasera possiamo dire che andiamo a casa con qualcosa in più, che ci portiamo a casa, ci siamo arricchiti in questo senso, e quindi la serata è stata proficua. Poi ovviamente ci sono stati altri scambi di contatto anche su altri settori, e quindi diciamo che appunto il ventaglio delle opportunità da un lato e degli interessi reciproci dall'altro è stato comunque ben sviluppato. A questo punto la domanda sorge spontanea: in che cosa sei specializzato come avvocato in pratica? Dunque, io nasco con la tradizione dell'avvocato civilista, in particolare nell'ambito del recupero crediti, delle procedure concorsuali, quindi fallimenti, concordati, amministrazione straordinaria. Però poi negli anni diciamo che ho affinato da un lato appunto questo che è stato il mio binario principale fin dal tirocinio, e dunque ingiunzioni, fase esecutiva con pignoramenti e quant'altro, quindi soprattutto un discorso a livello commerciale e societario. A fianco di quello da qualche anno ho aggiunto, anche grazie al nuovo studio e ai colleghi con cui abbiamo instaurato appunto un nuovo rapporto di collaborazione, anche un'apertura verso il diritto penale. Per ora si tratta di pratiche di bassa difficoltà, quindi ovviamente non serial killer o il classico caso da film televisivo, però piccole liti, oppure problemi, che ne so, a livello interpersonale, a livello familiare, con per esempio maltrattamenti, lesioni o cose di questo tipo, ma senza mai sfociare insomma in cose troppo grandi, ecco. E poi tra le mie, come dire, passioni che mi sono portato avanti insomma negli anni sono quello che riguarda la circolazione stradale, che comunque è un tema sempre abbastanza all'ordine del giorno, dalla classica pratica di risarcimento per tamponamento, incidente e cose di questo genere, fino ai ricorsi per quello che può riguardare per esempio un eccesso di velocità, una guida in stato di ebbrezza, quindi tutto quello che poi riguarda appunto la tutela del conducente e dei eventualmente danneggiati in tutte queste cose, ecco. Quindi ok, abbiamo capito. Adesso andiamo un po' più nel semplice, nel senso, per i nostri amici ascoltatori, anche saranno curiosi, diranno: adesso, una cosa bella e una cosa brutta di fare l'avvocato nel 2020, cioè cosa c'è di bello? Perché ormai tutti pensano all'avvocato, sai, hanno un po' il vecchio ricordo, no, di quei lavori, di quelle professioni che sono l'avvocato, il commercialista, il bancario, cioè quei lavori che una volta erano, come dire, sacri. Adesso un po' è cambiata la situazione anche per gli avvocati, giustamente. Direi di sì, anzi assolutamente direi di sì. Quindi non è più tutto oro quello che lui no, cica, giusto? Allora, diciamo che per quella che è la mia esperienza da ormai una decina d'anni circa, in cui sono entrato in questo mondo, che il giorno dopo la laurea si è aperto comunque un altro mondo, un altro pianeta in cui mi sono trovato un po' catapultato dentro, ma questo purtroppo è uno dei limiti a mio modo di vedere delle facoltà di giurisprudenza, del sistema universitario che abbiamo in Italia per quello che riguarda appunto le facoltà di giurisprudenza rispetto ad esempio a quello che accade con facoltà per esempio di medicina, dove anche nel corso del primo triennio insomma di lezioni ci sono anche dei confronti materialmente sul campo con ore di tirocinio presso ospedali piuttosto che pochi soccorsi eccetera. E diciamo che il motto che andava per la maggiore del causa che pende, causa che rende, ovvero più una causa è lunga più l'avvocato guadagna, credo che andasse bene fino a almeno una ventina d'anni fa, ecco. Adesso è cambiato. Adesso ci sono molte più difficoltà per il professionista ad essere retribuito dal cliente, anzi molto spesso bisogna inseguire per modo di dire il cliente per essere pagati. Soprattutto io lo vedo meno, ripeto, per quella che è la mia esperienza, soprattutto gli avvocati più giovani vengono un po' ancora visti sì, dire, come un consulente, non come un professionista vero e proprio, e quindi anche il cliente stesso nella sua visione dice vabbè, intanto l'avvocato mi segue, poi lo pago e poi sappiamo poi magari come va a finire, insomma, ecco, bisogna rincorrerli, bisogna incalzare a volte il cliente, ecco, per okay, essere pagati. Quindi Alessandro, se ho capito bene, una cosa brutta è che non si guadagna più come prima e si fa fatica ad incassare, ecco, come prima. Quello diciamo che è una delle cose negative, ha come contraltare il fatto che come posso dirla in termini più semplici per non parlare in troppo tecnico, diciamo che al giorno d'oggi si tende, almeno questa è la strada che io prediligo e diversi clienti insomma condividono questa impostazione, il fatto di valutare prima di attivare un giudizio classico davanti al tribunale piuttosto che davanti al giudice di pace, a seconda dei casi, è quello di tentare una definizione conciliativa stragiudiziale, quindi al di fuori diciamo delle aule di tribunale, con accordi tra le stesse parti, quindi tra il cliente e il suo non ancora, ecco, a quel punto avversario, però per esempio tra un fornitore e cliente che magari è, come spesso accade, rimasto indietro coi pagamenti, oppure tra i professionisti che assistono appunto le parti, quindi una trattativa con il collega nel quale si cerca ovviamente nei limiti del possibile, soprattutto nei limiti di quella che è la disponibilità del cliente, di valutare un accordo che eviti appunto a entrambi di dover andare in giudizio, anche perché ovviamente sono tutte attività faticose a livello professionale, costose per entrambi, e poi ovviamente l'esito del giudizio è sempre molto imprevedibile, ecco, all'inizio. Esatto. Quindi diciamo la cosa negativa è il fatto che tutti o molti, ecco, si lamentano, e a me ogni tanto scappa una risata su questo punto, si lamentano perché la giustizia italiana va male, i giudici e i tribunali sono lenti, cioè, i procedimenti sono ingolfati e quant'altro, però poi tutti vanno dall'avvocato, l'avvocato voglio fare causa. Chiaro. Ecco, e quindi bisogna dissuadere al cliente, non sempre se riesce, perché a volte tanti clienti dicono avvocato io accordi non ne faccio, io voglio fare la causa, voglio vincere. Okay. E allora lì bisogna convincere a nostra volta il cliente a, come dire, a scendere a più miti consigli. Mentre diciamo cose, lati positivi di fare l'avvocato nel 2020, io credo che tralasciando momentaneamente l'anno in corso che è stato molto particolare, ed è tuttora particolare, sta iniziando a tornare alla normalità in questo periodo, però ovviamente la questione Covid ha inciso. Sì, sì, fortemente. Per dire un momento temporale, potrebbe essere 2019. Sì. E quindi c'è stato, come dire, qualcuno l'ha vista in lato positivo, qualcuno meno. Io personalmente posso dire che il passaggio negli ultimi anni ha molta parte del lavoro con i procedimenti telematici, a mio modo di vedere ha snellito un po' le procedure, ha ridotto la necessità di recarsi materialmente, fare ore di commissioni in cancelleria, quindi depositare gli atti, ritirare le copie. Sono rimasti ovviamente degli adempimenti necessari da effettuare materialmente di persona, tuttavia per quello che è il mio ramo di attività, che è soprattutto il diritto privato, il diritto civile, avere la possibilità di poter lavorare materialmente dall'ufficio o da casa, adesso c'è il discorso smart working e quant'altro, e tramite semplicemente un click col computer depositare atti senza dover appunto recarsi materialmente negli uffici giudiziari è sicuramente un vantaggio. E poi il fatto che io dico, questo lo vedo magari non in generale per tutti, però posso dire che un lato positivo che io ho trovato in questo lavoro, che se da una parte pretende molto a livello di tempo, a livello di energie, soprattutto a livello mentale, e una concentrazione molto alta, un'attenzione a tutti i minimi dettagli e un aggiornamento pressoché quotidiano di tutte le novità che ci sono, dall'altro come lati positivi io vedo il fatto che mi ha aperto mondi e mi ha permesso di accedere a informazioni che probabilmente mai avrei pensato di poter arrivare a ad avere, e situazioni nelle quali non pensavo probabilmente neanche mai di poter avere l'occasione di dovermi confrontare. E poi la possibilità di uscire comunque dai quattro muri dello studio, se può dire questo, e girare un po' per l'Italia, e quindi avere l'occasione insomma di anche viaggiare, viaggiare e quant'altro. E quindi c'è chi lo vede come un punto negativo perché uno preferisce il classico avvocato che lavora in ufficio, va in tribunale, sta in giacca e cravatta. Per te invece è una cosa positiva. Io devo dire che ne ho approfittato perché anche poi, come dire, condivisa la cosa con i clienti, il fatto che sia l'avvocato con cui il cliente ha il rapporto che si sposta, va a seguire personalmente le cause anche al di fuori, per quanto mi riguarda, al di fuori dell'area, del circondario, del tribunale di Piacenza, devo dire che è una cosa che personalmente mi ha arricchito molto a livello personale, ecco, non a livello economico, ma a livello personale decisamente sì. Quindi questo è un altro elemento, secondo me, da non sottovalutare almeno per quanto mi riguarda. Grazie Alessandro, purtroppo il tempo a disposizione per noi sta scadendo. L'ultima cosa, chi ti volesse trovare, come fa a trovarti? Allora, lo studio è a Piacenza in via Mandelli numero 2, okay. È a circa 100 metri dalla piazza Cavalli, che è la piazza principale di Piacenza, okay. E come riferimenti possiamo lasciare una mail, sì, dimmi pure, che è Ferrini con due R, sì, okay. Punto avvocato, sì, @gmail.com. ripetiamo, Ferrini Fiorese, avvocato, @gmail.com. E il numero di studio, che è 0523 315960. Quindi 0523 315960. E lo studio è formato, giusto perché comunque anche gli altri colleghi purtroppo non sono stati presenti stasera, ma parlo e credo di poter fare comunque parlare anche a nome loro. Sono, oltre appunto al sottoscritto, Alessandro Ferrini, sì, gli avvocati Laura Ruscio, Monica Fendi e Lorenzo Susinno, okay, che abbiamo studiato assieme. Adesso noi abbiamo conosciuto Alessandro Ferrini, quindi chi ha bisogno, ecco, di Alessandro Ferrini sa dove trovarlo. Esatto. Va bene, grazie tante della piacevole chiacchierata, alla prossima. Assolutamente. Ciao Alessandro. A presto. Ciao. Grazie a tutti, buonasera.